Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Buonasera, Blu Radio Sera, buonasera Maurizio Calzavara, buonasera da Sergio Bortolami che è in regia. Stasera non vuoi parlare, Sergio? Come mai? Potrebbe essere più avanti. Buonasera, stasera facciamo una serata blues. Buonasera Max Ianantuono. Buonasera. Grazie di essere intervenuto. Perché facciamo una serata blues? Per ricordare che cosa, Max, stasera? Allora, stasera presentiamo un disco, diciamo, speciale, che è un disco che è stato realizzato per ricordare un bluesman importante, veneziano, e Guido Toffoletti. Esattamente, un grande bluesman. Esattamente, circa 10 anni fa. Un grande bluesman, perché non era soltanto un bluesman, era un personaggio che amava far sentire, far conoscere il blues a tanta gente, è vero Max? Infatti, è vero. Com'è nata la tua collaborazione, tu che sei salito sul palco con Alvin Lee dei Tennessee? Dobbiamo dirle ste robe, un ragazzo di 19 anni che sale sul palco è invitato da Alvin Lee, cosa vuol dire? Che emozione c'è stata quel tempo? C'è stata un'emozione fortissima, anche perché comunque, devo essere sincero, io all'epoca non conoscevo molto bene il repertorio di Alvin Lee, quindi per me è stata proprio una cosa, un'esperienza bellissima, però anche al momento difficile, francamente. Ma però dalla comunque tromba alla batteria, che differenza c'è? Vabbè, sono due strumenti completamente diversi. Però sei diplomato in conservatorio in tromba, hai cominciato con la tromba. Come mai questo passaggio? Perché comunque io sono un figlio d'arte, cioè mio padre era la prima tromba del Teatro La Fenice, quindi quando mi un po' influenzato verso la scelta della tromba, però comunque io ho sempre avuto una forte passione per la batteria fino dai 10 anni, poi ho sentito questa forte attrazione per la batteria e giustamente avendo un genitore musicista ha sempre spinto verso la direzione giusta, quindi a 10 anni avevo già la mia batteria, uno strumento, e ho già iniziato a strimpellare. Quindi una macchina ritmica praticamente. Certo. Guido Toffoletti, hai avuto una conoscenza, non solamente una conoscenza musicale, ma un'amicizia vera e profonda. Certo, vero, Max? Sì, è vero. The Great Blues Society, questa formazione che poi ha girato tutto il mondo, quanti musicisti hai conosciuto? Un sacco di gente. Sì, un sacco di musicisti, abbiamo avuto ovviamente la possibilità di suonare con dei musicisti importantissimi nel panorama internazionale, insomma. E ti hanno fatto crescere. Certo, possiamo citare alcuni nomi importanti, Mick Taylor, Dick Esta Smith, Ian Stewart. E com'è Ian Stewart? Ma io francamente non l'ho conosciuto personalmente, perché all'epoca con Guido si facevano dei lavori, diciamo, su vari studi di registrazione, quindi musicisti che erano all'estero, partiva Guido con i nastri, mentre con altri abbiamo avuto la possibilità di conoscerli personalmente, quindi Alexis Corne, che è venuto in Italia. Alexis Corne, che è stato praticamente l'apice, il padre del blues inglese, è stato praticamente chi ha introdotto Guido a questo genere particolare. Certo, vero. Infatti Guido, quando è stato a Londra un periodo, è entrato appunto in contatto con questi musicisti, con Alexis Corne, e dopo ovviamente nell'arco degli anni ha sviluppato questi contatti con questi musicisti e ha creato delle situazioni discografiche. È stato difficile l'idea di fare questo omaggio dopo 10 anni dalla scomparsa? Ma la difficoltà principale è stata quella di radunare tutti questi artisti, perché ovviamente io, fra l'altro, devo essere sincero, sono andato anche un po' fuori da quello che è il tipo di musica blues tradizionale, e ho chiesto la partecipazione di artisti che magari vanno anche fuori da questo tipo di fascia musicale. Beh, un po' perché per scelta, ovviamente, e anche perché comunque ho coinvolto degli amici di Guido, tipo Patti Pravo e Danilo dei Nomadi. Sì, poi sentiremo Aldo Tagliapietra, sì, Danilo dei Nomadi più tardi telefonicamente. Diciamo che è stato un lavoro di circa 2 anni per realizzare questo. Quindi un lavoro pesante, ma con tanto con tanto pathos, con tanta volontà, con tanta voglia di fare. Salutiamo anche il nostro amico che è qui presente. Come ti chiami? Ciao a tutti, Stefano Zabeo. Che poi forse parteciperai assieme a Max per un set, qualcosa faremo dal vivo, non si sa. Chi lo sa? Fino alle 10:30 abbiamo tempo. Una sorpresa. Apriamo la finestra, Max, cosa dici dell'album? Sì, cominciamo con la prima traccia. Me la spieghi un secondo? Sì, allora, il primo brano è un brano di Guido Toffoletti, si intitola The Same Story, è un brano che noi abbiamo... Ovviamente è stato registrato nuovamente in studio con la formazione, diciamo, originale della Blue Society. Infatti ho chiamato Stefano Zabeo, benissimo, Massimo Fantinelli al basso e Gilberto Giusto al sax. Abbiamo realizzato questa traccia appunto suonando un brano originale di Guido, con un arrangiamento diverso. Sì, difatti Guido Arari nella presentazione bellissima ha scritto che hai dato più vigore, più sprinta, l'hai un po' non trasformato, ma hai dato un pathos diverso, certo, al pezzo. Siamo d'accordo? Sì, sì, poi comunque è un filo conduttore con la vecchia storia della Blue Society e quella nuova che parte già dal secondo brano, e si sente che anche per scelta andiamo verso delle sonorità anche più energiche, sì, rispetto a quello che erano i gusti particolari personali di Guido, che erano invece molto sul blues tradizionale. Esattamente. Tu hai cercato di allargare gli orizzonti, mi pare giusto. Andiamo col primo pezzo, allora, Sergio. Blue Radio Sera. Blue Radio Sera. This morning, I just want to wash my face, but you were shouting just like every day. Well, it's the same old story. Well, it's the same old story. Well, it's the same old story. Why don't you rub me tonight? Talk in the morning until the sun goes down. So give me a good reason just to stay around. Well, it's the same old story. Well, it's the same old story. Well, it's the same. It's enough for you. Why don't you treat me like I used to treat you? Well, it's the same old story. Well, it's the same old story. Well, it's the same. Same old story. Why don't you write? Blu Radio. Il Veneto come non l'hai mai sentito. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Sergio, le classiche 12 battute del blues, c'è poco da fare, cosa dici? Stefano, vieni avanti al microfono, adesso parliamo, visto che hai lavorato molto su questo pezzo. Giustamente Max mi dice, ma Stefano il chitarrista è un frontman, è davanti al pubblico. Sei davanti al microfono adesso, mi devi dire tutto quello di questo pezzo. Come è nato, come si è sviluppato, l'idea, il pathos, tutto quello che hai fatto. Quando Maurizio parte così io prenderei paura. Ecco, cioè, con questa enfasi. Non sei il solo. Dimmi. Comunque niente, questo era un vecchio brano di Guido che lui aveva fatto un po' sulla scia di quelle interpretazioni che faceva Elvis, no? Riferendosi soprattutto a quello spettacolo dal vivo che Elvis fece al ritorno dal servizio militare. Certo. Lui aveva in testa queste cose, aveva i suoi modelli, insomma, come ovviamente tutti noi. E quando Max mi ha chiamato, perché sarebbe stato sicuramente... aderito con molto entusiasmo all'idea di fare un album celebrativo, anche se questo termine può essere un po' un omaggio, non diciamo, celebrativo, un omaggio e basta. Ecco, ho pensato di invece di sterzare un attimo verso John Lee Hooker, infatti esatto. Riprende abbastanza quello stile più che non quello del rock and roll, diciamo, no? E sicuramente il pezzo è rimasto quello di Guido. No, non ci sono dubbi su questo. Tra l'altro ho fatto anche parecchia fatica a tirarmi giù il testo, perché Guido aveva la bruttissima abitudine di scrivere delle cose e poi cantarne assolutamente delle altre. Come Bob Dylan praticamente. Come fa Bob Dylan? Di solito va sempre così. Okay. E niente, ho tirato giù il testo, ripeto, con molta fatica, perché certe cose erano davvero difficili, perché poi si allontanava dal microfono, si avvicinava, erano registrazioni molto casalinghe, diciamo, sì. Quello che si facevano all'epoca, no? E mi è venuta fuori questa cosa qua, che poi loro naturalmente hanno interpretato in maniera meravigliosa. Ma, cioè, una vocina mi ha detto che dentro lo studio c'è stato un grande trasporto tuo e di Max. Adesso lo possiamo dire ste robe. Il pubblico deve sapere qual è stata la sofferenza per fare un pezzo. Quello è importante. Il feeling, il pathos. Ma guarda, questo era il brano, il cavallo di battaglia di Guido, per cui io e lui, soprattutto lui naturalmente, siamo molto affezionati a questo brano per ovvi motivi di tipo affettivo, no? E quando poi l'abbiamo registrato, forse il pubblico non lo sa, ma generalmente non si registra mai in diretta tutto quanto, si registrano prima le basi, poi certo, i vari strumenti, e la voce viene per ultima, perché deve tener conto di tutta l'amministrazione dell'arrangiamento che c'è attorno. E l'ho cantato con grande trasporto. Sì, perché c'erano le memorie dei vecchi tempi, tutti i concerti che abbiamo fatto, i giri per l'Italia, tutte le avventure trascorse. E quando l'ho finito, nonostante il tecnico imprecasse in tutte le lingue, Max si è messo a battere le mani, perché l'aveva vissuta esattamente nello stesso modo. Esattamente, era in quella dimensione. Max, cosa dici? Sono le 21:30, vuoi che chiamiamo Aldo? Visto sì, okay, che i tempi sono quelli. Va bene, dai. Chiamiamo Aldo, adesso Sergio prende il numero, e parliamo un momento dei tanti ospiti che ha avuto questo album, questo sì, disco. Allora, ci sono sì, diversi ospiti, ovviamente. Andando per ordine, dal secondo brano c'è Mario Schiliro, che è un chitarrista importante italiano, ha suonato con i più grandi, con Zucchero, con Patti Pravo, con tanti artisti. Quindi un grande turnista, sì, in senso dopo andremo anche buono a sentire del termine. Il brano. Dopo c'è Aldo Tagliapietra, che adesso sentiremo nel prossimo brano, e c'è sul quarto brano un cantante importante, che comunque è stato forse il primo cantante della formazione della Blue Society di Guido Toffoletti, che è Glenn White, un cantante di colore che ha una voce molto stupenda. Soul, molto bravo, esatto, repitoso. Infatti, dopo più ce l'abbiamo. Eccolo qua. Ciao, microfono. Pronto? Pronto Aldo, buonasera Aldo. Sì, chi parla? Sono Maurizio, Blu Radio Veneto, assieme a Max stasera. Ciao, per Aldo. L'omaggio a Guido. Sì, sì, perfetto. Sì, sì. Come va? Siamo pronti? Siamo pronti, via, si parte. Si parte. Com'è stato l'inserimento, Aldo, questo terzo pezzo che tu hai suonato con il sitar? Spiegami un momento. non ho capito, scusa. Hai suonato il terzo pezzo, hai messo il sitar dentro a questo pezzo, il terzo pezzo dell'album. Ah, di no, di c'è il... l'album, sì, sì, sì, sì. È una cosa nata così, come dire. Il pezzo è di Max, in ogni caso, originale suo. Dimmi, dimmi, dai. Ma no, lui canta. Cosa improvvisata. È stato, tu canti anche praticamente. Si canta sul terzo brano. C'è la voce di Anna. Su un brano e poi c'è questa parte così. C'è un intervento di sitar sull'altro brano. È bello l'intervento di sitar, molto interessante. Il sitar è un tuo pallino, tra virgolette, possiamo dire questo? Ma io l'ho scoperto ai tempi, negli anni 60. Quando sei andato a White con la famosa Renault verde assieme agli altri? Sì, sì, nel 70 questo nel 70. Certo. E poi nel corso degli anni ho comprato degli strumenti, dei sitar, un sarangi, varie cose, dopodiché li ho lasciati a casa come mobili, soprammobili, perché non avevo tempo e neanche l'occasione, diciamo, di mettermi a studiarli. È successo che invece nel 96, nel 94 anzi, scusa, ho conosciuto Buddhaditya Mukherjee, che è uno dei più grandi sitaristi indiani, che suonava insegnava alla scuola di musica comparata di Venezia, qua, che abbiamo ogni anno, fanno dei corsi estivi, ha insegnato anche Ravi Shankar negli anni 80, e quindi da lì è iniziato il percorso più serio, ecco. Il tuo amore per il sitar. Sì, quindi l'amore per lo strumento ce l'avevo già da sempre, diciamo. Poi mi sono potuto applicare. Ma avevi un grande amore per il blues e una grande amicizia con Guido, però, anche, vero? Sì, con Guido, pensa che Guido veniva a Milano con noi quando andavamo a fare i provini, come la prima formazione delle Orme, e quindi ci seguiva perché lui era anche lui appassionato di musica, della chitarra, eccetera, e quindi quando non perdeva l'occasione, insomma, di aggregarsi alla compagnia. E poi, diciamo, che anche se non giornalmente, voglio dire, ogni tanto ci sentivamo, ci incontravamo, eccetera, quindi con lui c'è sempre stato questo, lui ha sempre, come dire, per esempio quando mi vedeva assieme a mia moglie, diceva che eravamo una coppia meravigliosa, perfetta, eccetera, capito? Quindi è stato questo con Guido. E quindi sei stato subito favorevolissimo all'idea di Max per questo omaggio? Ma certo, assolutamente. Poi, insomma, anche Max ci conosciamo da tanti anni. Certo. Io sono uno che, come dire, mi fa piacere collaborare, e soprattutto anche con i musicisti, insomma, della zona, chiamiamoli così. Nostri veneti, Max è molto più conosciuto che nella zona, ma comunque, insomma, voglio dire, io se posso suono anche con, voglio dire, con musicisti meno conosciuti, ma comunque, perché ritengo che la musica vada condivisa, ecco. Certo. Il più possibile. Tu che hai suonato tutti, hai suonato anche con Peter Emmy, quindi, insomma. Ah, beh, sì, con David Jackson, insomma. Visto che famoso traduzione del pezzo vostro in inglese, poi con le etichette c'è stato adesso si chiamano le coordinate. Senti, assieme ai band graph. Aldo, ma parliamo del disco. Posso dire una cosa? Sì, saremo insieme a ospiti al Festival Show il 22 agosto il 22 a Bibione. Agosto, sì, e faremo, quindi, una cosa assieme. Poi infatti, io credo che farò anche un intervento, come dire, per conto mio, sempre nella stessa serata. Sì, e quindi sarà un piacere, insomma. Certo. Sarà un piacere suonare con Max, ci sarai anche te al Festival Show. Probabilmente sì. Quindi sarà una bella cosa, una bella occasione. Ciao Aldo, sono anch'io. C'è anche Stefano Zabeo qui con me. Ah, Stefano! Non poteva mancare, ovviamente. Il grande Stefano, un grande maestro. Un grande maestro di blues. Troppo onore. Benissimo, allora bella occasione. Vi abbraccio tutti quanti. Grazie Aldo. Con Stefano e con Max ci vediamo il 22 agosto a Bibione. Certo. E un abbraccione a tutti. Grazie. Grazie. E spero di vederti qua da noi, Aldo, in un futuro possibile qui a Rockaway. Ma guarda, io volentieri, magari possiamo sentirci tra un po' più avanti, anche perché io sto preparando un lavoro mio nuovo. E sarebbe un'occasione, appunto, anche per presentarlo, eccetera. Certo. Grazie. Ok, di tutto. Ciao Aldo, grazie. Ciao. Ciao. Benissimo, bello, è stato bello, come sempre, spontaneo. Allora, cosa dici, io Max? Io direi di ascoltare il brano. Che è la traccia numero 3, esatto, mi pare. Esatto, You Are The Way. La traccia numero 3 di questo, omaggio, non celebrativo, omaggio solo a Guido Toffoletti. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Light for my eyes, baby. Sera. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Ok, abbiamo sentito due pezzi, Max. Adesso li spieghi tutti e due. Un po' sì, allora, primo, che è il traccia numero due. Il primo brano è, si intitola Gotta Be Free. L'ospite in questo brano è Mario Schiliro, che è il chitarrista di Zucchero e di tanti altri musicisti importanti. Molto hendrixiano questo, esatto, pezzo. A livello internazionale. E, fra l'altro, questo, cioè, all'interno di questo disco ci sono diversi brani che sono dei brani, diciamo, inediti, nel senso che sono scritti da me per la musica e da Walter Apa, che è un mio collaboratore, che in questo caso ha anche cantato questa Gotta Be Free. Dobbiamo dire una cosa: molti pezzi sono scritti da te, sono originali tuoi, praticamente. Sì, sì. Assolutamente. Sì, questo brano che avete, cioè, sia il secondo brano che il terzo, per la musica l'ho scritta io. Perfetto. I testi li ha scritti Walter Apa. Esattamente. Che è con tuo collaboratore. Esatto. Il terzo brano che avete sentito, che hanno sentito gli ascoltatori, You Are the Way, quella che cantava appunto Aldo Tagliapietra. È un po' psichedelica, ho detto, esatto. Io. Col, che ha tendenza psichedelica, perché giustamente dobbiamo ricordare queste robe. Il tuo progetto è un progetto che va oltre il blues, si dirama in altri settori, esatto. Giustamente, perché l'idea è questa. Sì, infatti la mia idea era appunto di realizzare un disco partendo appunto dalla matrice blues con il primo brano che abbiamo fatto sentire, che è The Same Story, per dopo viaggiare verso delle direzioni con delle sonorità diverse, sicuramente più energiche, per cui più rock. Infatti il nome del gruppo non è più Blue Society, ma è Max Rock Blue Society, e anche contaminando questo rock blues con delle sonorità particolari che dopo nell'arco della trasmissione avremo modo di far ascoltare. Quindi allargare gli orizzonti. Sì, infatti ci sono delle contaminazioni tipo con strumenti cornamusa, twin whistle. Quindi folcheggianti, tra virgolette. Esatto, infatti. Poi giustamente mi facevo notare la nostra Emanuela, che ci suonavi la tromba qua. Sì, sul brano che ha cantato Aldo Tagliapietro ho fatto un piccolo intervento di tromba. Bello, interessante. Certo, sì. Il primo amore praticamente musicale che è venuto fuori. Sì, oddio, il primo amore è sempre la batteria. Però, sempre diciamo la che, batteria, insomma, però... La tromba la suono pochissimo, quindi non è che posso fare chissà grandi cose, però insomma ho inserito questo colore, diciamo. L'idea è stata tua praticamente di inserire questo colore? Sì, sì, sì. E come sì, mai... È merito di Emanuela, ma Emanuela parla. Mi ha spinto un po' la mia. E fra l'altro, l'ha spinto l'Emanuela. Faccio un appunto un attimo, devo fare un chiarimento. All'inizio di questo brano, questa Gotta Be Free, si sente anche il suono di un motore. È la mia dolce metà, che ha deciso. Emanuela Butacin, che ha lei suonato questo un motore. Un sacco di idee, però, signora Emanuela. Sì. Sì. Praticamente è il suono di una Lotus Esprit S4, che è un'auto inglese però, particolare, quindi che ha un suono, il motore è un suono speciale. È bello questo discorso di contaminazione, hai detto giustamente, di contaminazione, un po' di tutto. Sì, infatti. Quindi... Questo progetto riesci a portarlo avanti? Ci sono delle date o presunte? Qualcosa c'è? Qualche idea c'è? Faccio una premessa: il disco non. Diciamo il titolo, innanzitutto. Il disco si intitola Set Me Free 10 Years After. Dove lo possiamo trovare? Si può trovare, dunque è uscito con un'etichetta importante che è la Edel, che è un'etichetta tedesca, che però ha anche ovviamente una filiale italiana, e è distribuito dentro il circuito della Feltrinelli, quindi è possibile trovarlo in tutta Italia nei siti Feltrinelli, eventualmente nei negozi di dischi e con il titolo e l'etichetta si può richiedere anche dal tuo sito, è possibile? Sì, è possibile anche ordinarlo al sito della Edel. Basta andare alla Edel Italia, vai dentro il sito, lo trovi e lo ordini via internet. Perfetto, quindi si può trovare semplicemente, senza tante difficoltà. È un bel progetto, ripetiamo, un progetto che avanza, che va lontano da certi canoni. Giustamente Guido Toffoletti aveva un canone, il blues. Invece Max, giustamente, attraverso quella sua un nuovo progetto, cerca di allontanarsi, nel senso positivo del termine, da questo, sì, per allargare, per trovare nuovi stimoli, nuovi progetti da sviluppare. Cosa dici? Certo, infatti noi stiamo anche già preparando diciamo del materiale nuovo, sempre verso questa direzione comunque. Quindi con le contaminazioni di strumenti particolari, sempre rock ovviamente, più rock che blues. Del primo pezzo abbiamo parlato con Stefano, degli altri pezzi l'idea di contaminazione come è nata, come si è sviluppata, proprio in studio? È stata un po' una ricerca, innanzitutto perché sono entrato in contatto con i musicisti, in particolare con Andrea da Cortà, che è un musicista secondo me molto interessante, che suona tutti questi strumenti particolari, cioè arpa celtica, organetti, cornamusa, twin whistle, quindi ho diciamo E dopo l'incontro con questo musicista mi è un po' venuta l'idea di provare a creare queste contaminazioni, dopodiché in studio abbiamo sentito che funzionava. Quindi certamente, voglio dire, ci sono stati anche dei momenti molto emozionanti, nel senso che quando la musica trasmette l'energia giusta, cioè io devo essere sincero, ho anche pianto qualche volta in studio. Me l'hanno detto sempre. Quindi cioè, vuol dire che hai raggiunto l'obiettivo, nel senso quando l'emozione è così forte, vuol dire che ha funzionato. C'è niente di male, anzi una cosa molto positiva, secondo me. Vuol dire che sei entrato nel momento giusto, nel veicolo giusto. Andiamo con un altro pezzo del disco, che traccia hai scelto? Possiamo sentire Set Me Free. Che è la traccia numero? Che è il brano, la traccia numero 4, dà il titolo al disco ed è cantata da un ospite speciale che è Glenn White. Perfetto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. You don't care for me. I don't care about that. I'm going way down south. No one gonna find me, baby. Will the wind ever remember? Every day of the week I will be in a different city. Gotta get away. I gotta get away right now. Will the wind ever remember? Hey, our story. So I can live, set me free. Radio, il Veneto come non l'hai mai sentito. Blu Radio, Blu Radio, Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Saggio, Glenn White, tu che sei un amante di quelle sonorità, che lo da sempre. Sì, lo conosci in ogni caso. Lo conosco radiofonicamente. Radiofonicamente, chiaramente. Una grande voce. Come mai questo connubio con Len White? Len White, semplicemente per il fatto che è stato il primo cantante della formazione originale della Blue Society. Ecco, perfetto. Quindi era una cosa, era giusto normale chiamarlo per questo tributo a Guido Tafolla. E poi c'era, come giustamente tu hai detto mentre il pezzo andava, queste sonorità un po' fuori, infatti, belle. In questo brano c'è anche Aldo Tagliapietra che suona il sitar sopra una struttura di violino elettrico, quindi abbiamo bello. Degli intrecci particolari, infatti il risultato è stato molto interessante. Proprio del sitar ho chiesto ad Aldo, visto che le Orme e l'Equipe 84 furono i primi in assoluto gruppi che usarono il sitar. Esatto. Diciamo che Vandelli fu il primo a portarlo in Italia, poi sentendo le tipologie beatlesiane, ma questo è un altro discorso, lo faremo nelle prossime puntate. Andiamo avanti con il discorso musicale. Abbiamo sentito questo pezzo molto bello, molto interessante, molto vivace, molto di costruzione, trovare altre strade, altre vie. Cosa dici, Max? Sì, sì, infatti l'intenzione, È quella. E la prossima intenzione quale sarà? Se ci sarà un disco ancora nuovo? Appunto di andare verso questa direzione anche di sperimentazione, fra l'altro. Sì, appunto di cercare questi strumenti con le sonorità particolari, inserirli nel nostro sound. Quindi stiamo già preparando del materiale nuovo, dopo bisogna vedere ovviamente se troviamo anche l'etichetta, perché non è così facile. È un po' difficile trovare l'etichetta. Infatti devo essere sincero, penso di poter dire che per me è stato un traguardo importante quello di realizzare questo disco, che devo essere sincero l'ho realizzato totalmente con le mie forze. Hai fatto tutto te. Ho gestito autoprodotto tutto, al 100%. Dalla scelta di brani, alla scelta degli ospiti, lo studio dove registrarlo, gli arrangiamenti, infatti anche scritto produzione artistica, è vero, perché l'ho fatto tutto io. Poi ovviamente con la collaborazione di tutti quelli che mi hanno aiutato, i musicisti, gli ospiti. Una cosa importante che devo dire è che comunque tutti gli ospiti hanno partecipato alla realizzazione di questo progetto gratuitamente, cioè nessuno ha chiesto un centesimo, perché sennò comunque era anche impossibile realizzarlo. Certo. E basta. Quindi è una cosa molto positiva questo qua. E comunque è uscito con un'etichetta importante, fra l'altro, quindi no, Edelsi è un'ottima etichetta. Sì, e c'è molta difficoltà, Max, a portare avanti un progetto di questo genere al di là dell'omaggio a Tafolletti. Sì, penso che sia una difficoltà che hanno la maggior parte dei musicisti che tentano di fare magari qualcosa di personale, che va fuori dalle cose commerciali. È veramente durissima, no? Dura. Com'è la situazione adesso? Difficile, molto difficile. Difficilissima. No, perché quindi c'è chi si barcamena suonando Liga e Vasco e Liga. Sì, però a parte che vedo Stefano, non voglio entrare in questo argomento perché non vorrei dire delle cose che magari potrebbero essere fraintese, però effettivamente c'è un po' troppo di un po' saturo il mercato delle situazioni dove si suona, e ci sono troppi tributi e c'è poco spazio per quelli che fanno veramente invece un discorso personale interessante, che non hanno spazio. Ma c'è spazio nei locali del Veneto, citiamo Mestre, citiamo Venezia, citiamo Padova, per fare un discorso personale, quello che fai te? Secondo me attualmente no, perché c'è tutta questa diciamo questi gruppi che fanno questi tributi, che hanno completamente saturato la situazione, quindi non c'è spazio per chi deve proporre qualcosa di personale, di interessante. Comunque voglio dire, non è che voglio dire che il mio progetto è interessante e gli altri no, certo. Però non sono solo io che ho questo problema, ma tutti quelli che cercano di fare qualcosa di diverso sono praticamente nella condizione di non suonare. Ma è una cosa dimmi. E non è neanche una questione di prezzi. Ah, ok. Ma è una cosa tanti magari dicono: ma non suonate perché chiedete troppo, non è neanche questo. Ma non è una cosa solo italiana, mentre all'estero la situazione è un po' diversa, c'è lo spazio personale molto diverso. Punti di riferimento per quanto riguarda l'estero, ho qualche idea di quello che può essere in Germania, in Austria. E quindi le cose sono diverse. Certo. Ti faccio un esempio. Dimmi. I Wind, che è un gruppo che è venuto a suonare qualche settimana fa, è di Udine, musica propria come la tua, chiaramente, non ha avuto nessuna difficoltà a proporre la musica propria in Germania, in Austria, in Svizzera, in Svezia, perché c'è un'altra mentalità, secondo me. Secondo me sì, sicuramente c'è di base il fatto che c'è un'altra mentalità, e inoltre io dico una cosa, cioè è giusto che ci sia spazio per tutti. È vero. Qui invece c'è l'errore fondamentale, che c'è spazio solo verso una direzione, mentre gli altri non riescono. Sono messi da parte. Esatto, e questa è una cosa secondo me veramente scorretta. Sono 21:59, siamo sempre soltanto Blue Radio Seda, Rock Wave, assieme a Sergio Bortolami in regia, Maurizio Calzavara al microfono, Max Gianantuono più Stefano Zabbeo, che da questo omaggio a Guido Toffoletti, ma adesso facciamo sì tu un pezzo loro personale, loro, no, non è vostro il pezzo, è una rivisitazione di cosa allora? Guarda, era uno dei brani a cui Guido Toffoletti era più affezionato, e anche questo è preso dal repertorio di Elvis, anche se l'autore Jimmy Reed è uno dei più grandi, notati, diciamo più grandi nell'ambito del blues, insomma, si chiama Baby What You Want Me To Do. Perfetto. La suoniamo dal vivo? Sì, tutto dal vivo, tutto live. You got me running, you got me hiding, you got me hummed up, down, down, any way you won't let it roll. Yeah, yeah, yeah. You got me doing what you want me, baby, what you want, let it go. You got me up, you got me down, you got me up and down, down, up, anywhere you won't let it go. Yeah, yeah, yeah. You got me doing what you want me, baby, what you want me to do. You got me weeping, you got me hurting, you got me peep, hide, hide, dip, any way you won't let it go. Yeah, yeah, yeah. You got me doing what you want me, baby, what you want me to do. Radio Sera. Blu Radio Sera. Ok, Stefano Zabeo alla chitarra, Maxi Antuono al tamburello, la signora Emanuela alle ai bongi. Bravissima, bravissima. Tutto improvvisato, tutto live, cioè niente di preordinato. Bello, bello, bello. Così questo è lo spazio di Rockaway. Si deve fare così. Io alle, non so se siete d'accordo, però prima di finire la trasmissione, cioè alle 22:30, hai un altro pezzettino, lo fate? Sì, sì, sì, sì, lo fate, lo fate, lo fate. Fra qualche minuto chiamiamo Danilo. Dimmi, dimmi. Ti premetto una cosa, che io non sono una musicista, eh. Ma fai parte del feeling, dell'ensemble. È stata brava, vero? Sei andata a te. È stata brava. Sergio ha detto, poi tu che sei un perfetto del tempo, hai capito benissimo, è andato perfettamente. Fra poco chiamiamo Danilo, dei Nomadi, Danilo Sacco dei Nomadi, e parliamo un momento... sì, del pezzo che vuoi sentire adesso. Volete io fare... sì, All Day All Night si intitola, sempre un brano scritto da me e da Walter Apa. E... Walter Apa cosa scrive? Le parole, il testo. Sì. Questo è un brano un po' particolare, un ritmo sì, particolare, adesso avrete modo di sentire. Particolare insomma. Perché, Max? Perché è un ritmo incalzante, che ricorda molto la locomotiva, secondo me. Gucciniana? Sì. Inoltre qui c'è un altro strumento particolare, c'è un banjo che fa tutto lavoro di ritmica in sottofondo, che però dà un colore particolare. quindi ha un sound particolare. La locomotiva nel senso di America, di Stati Uniti, di sì, è anche strisce. Comunque proprio di mezzo di trasporto. Esattamente. Minimamente la locomotiva, sapete perché? Perché oggi si sta celebrando 70. Dei 70 di Francesco Guccini, quindi il brano numero 5, 70 di Francesco Guccini, quindi per quello mi viene in mente la locomotiva. E adesso sentiamo il pezzo e dopo chiamiamo sì. Danilo Sacco dei Nomadi, ok? Blu Radio. Radio Sera. Blu Radio Sera. Ok, voglio ritornare sulla locomotiva, che si è sentita molto bene questo suono della locomotiva, questo modo di... queste sonorità decisamente interessanti, c'è poco da fare, a me interessa il discorso. Sì, abbiamo parlato a stelle e strisce, ma perché la locomotiva, questo rumore, non è un rumore, è un suono praticamente. Sì, ma la scelta di una... divisione ritmica particolare. Un momento, spieghiamo qual è la divisione ritmica, perché noi forse lo sappiamo, però gli ascoltatori mica tanto. È una costruzione ritmica basata su un disegno particolare che crea questo, diciamo, suono, che fra l'altro io l'ho suonato su due rullanti contemporaneamente. Bello questo. Infatti. E quindi crei questa sonorità particolare che ricorda molto, per la costruzione ritmica, l'andatura della locomotiva. E... Ho letto quelle a vapore, ovviamente, non chiaramente le... quelle a vapore. Ho letto sulle tue elettriche. Biografie, ti ispiri a certi batteristi, hai un punto di, no, di correlazione, forse di ispirazione così lontana a certi batteristi importanti. Diciamo che fondamentalmente il primo batterista in assoluto che mi ha, diciamo, un po' influenzato era il batterista di Deep Purple. Che poi stranamente c'è una cosa da dire, dimmi. Io ero piccolissimo e mi ricordo che al tempo abitavamo a Venezia, quindi un giorno siamo usciti io e mia madre e siamo passati davanti a un negozio di dischi e praticamente mi ha colpito una copertina, cioè c'era questo disco con questa copertina particolare, che non sapevo l'inglese, non sapevo niente, però mi ha colpito questa copertina, in realtà era Stormbringer di Purple. Quindi mia madre ha detto, vabbè, quel disco l'abbiamo comprato, sono andato a casa... E ho iniziato ad ascoltare sto capolavoro, mi sono innamorato subito dei suoni, le sonorità della batteria di Ian Paice, una serie di cose. E da lì dopo comunque, ovviamente crescendo, ho sentito altri batteristi, ho scoperto altre tecniche, altre cose. Quindi sono tanti, diciamo, i batteristi che mi hanno influenzato dal punto di vista di quello che può essere il bagaglio. Perché secondo me ogni musicista dopo alla fine nel proprio bagaglio ha un po' assorbito quello che sono... le caratteristiche dei batteristi, magari nel mio caso sono batterista, caratteristiche particolari di questi batteristi speciali. Dopo comunque penso che sia importante che dopo un musicista abbia la propria strada, devi avere un po' il tuo stile dopo, comunque, sì, che magari c'è chi riesce ad averlo, chi non. A proposito di batteristi rock, cosa dici di Bonzo e di Keith Moon? Io ti dico francamente, Keith Moon è un batterista che non ho mai ascoltato più di tanto. Li ho amati, però quando non c'era già più lui. Quindi ho magari con Simon Phillips alla batteria, che sono batteristi tecnicamente diversi, ecco. E Bonzo? Non l'ho mai sentito più di tanto, no. Tipo batteristi Neil Peart dei Rush. Sì. Sono più verso quel genere, praticamente. Esatto. Comunque dopo va bene, Billy Cobham e tutti i grandi, insomma. A proposito del batterista di Deep Purple, viene spesso qui? Sì, è spesso qua in Italia, suona spesso qui da noi. Fa delle specie di scuola, di... Non lo so, io vedo che è inserito in diverse situazioni e dopo ovviamente fa anche le sue date con i Deep Purple, insomma. Ci siamo, mi dicono di sì. Allora c'è il telefono, Danilo Sacco di Nomadi. Buonasera Danilo. Sei in diretta? Pronto? Sempre in diretta, buonasera. Siamo in diretta. Che meraviglia, come state? Bene, sai come stai? Bene, sto cucinando qualcosa. Ah, stai ancora cucinando? Mi diceva l'Emanuela che avevi cominciato a cucinare verso le 7 all'inizio. Madonna, che stai facendo? ma ragazzi, qua se... ragazzi, la cucina è come il blues. Va bene o non si fa? Esattamente, la cucina come blues, hai detto una cosa giustissima. Com'è stata l'idea di partecipare a questo omaggio fatto da Max e dagli altri per Guido? Ma guarda, Max mi ha chiesto una collaborazione, io sono stato estremamente onorato di poterla fare, perché parliamo di un grande personaggio, che è il signor Toffoletti. Dico signor Toffoletti perché ha insegnato il blues a tutti. Bene. Molte persone fanno finta di non saperlo. E ti sei calato bene nella parte, mi hanno detto. No, una vocina mi ha detto questo. Ho provato. No, ci hai provato molto bene. Poi canti in inglese, è una cosa non abbastanza rara per te, di solito canti in italiano. Ma diciamo che comunque sia, non mi sento in grado di cantare in inglese, però ho voluto provare lo stesso, sembra che sia andata bene, però non posso dirlo io, devono dirlo le persone che hanno ascoltato questa cosa, non lo so. No, un ottimo lavoro, dai. Hai fatto un grande lavoro, dicevano giustamente, poi si sente dal pezzo, un ottimo lavoro. Esce una caratteristica tua particolare che con i Nomadi non si sente. Ma no, non si sente, no, perché ovviamente gli stili sono diversi, e quando Max mi ha detto, senti, ci sarebbe da fare questa cosa, io ho detto al volo, perché è bellissimo fare qualcosa che normalmente non fai, no? Giusto. E quindi sì, cantare in una tonalità non tua, cantare in inglese, cosa che non fai perché non ti senti in grado di farlo, una piccola sfida. Fantastico. Quindi non mi c'è sono sta... divertito moltissimo. Non c'è stata, c'è stato un tanto feeling. Cioè, Emanuela vorrebbe dire una cosa. Vieni avanti, Emanuela, vuoi dire qualcosa? No, volevo dire, se riesci a liberarti per il 13 agosto, quello che ti avevo chiesto prima, ti ricordi? Certo, al Village, certo. Marghera. Certo. Quindi sarà un bel concerto quel giorno al Village di Marghera. Vediamo sarà, se... Se sono libero sarà sempre un piacere, però come ben sai, non voglio mai promettere niente a nessuno di sicuro, perché come oggi, oltretutto... come i musicisti sanno, viviamo in un momento molto difficile. Certo. Quindi i concerti vengono stabiliti, poi vengono eliminati. È un brutto momento. Un brutto momento in generale per la cultura in Italia. È un brutto momento. Sì, e questo mi fa molto molto male. Nel senso che noi deteniamo il 70-75% delle opere d'arte del mondo e noi come italiani... ma non noi, non voglio fare polemiche, sia chiaro, non ci rendiamo conto di quello che abbiamo e allora pensiamo ancora che la cultura sia una cosa così che va e che viene. Sì, molti pensano che il musicista non è un lavoro, una professione, invece una grande professione è un grande lavoro. Porca miseria, è molto faticoso, ma certa gente non pensa in modo diverso, ma questo lo pensano solo gli italiani, non penso che all'estero ci sia questo discorso. No, non c'è, infatti, tu guarda, soprattutto i paesi anglosassoni hanno un modo di vedere questo mestiere, perché è un mestiere molto difficile, hanno un modo di vedere completamente diverso. Qui è un buon paese, questo è un paese meraviglioso, questo l'Italia ha tutto, però va bene se vuoi fare il calciatore o la velina, va bene, no? La velina. Ma il musicista è un po' difficile. Anche la velona. Anche la velona, anche la velona, sì. Però se vuoi fare il musicista o il pittore o lo scultore o lo scrittore, non è tanto semplice. Ma questo è dura. Ovviamente è un mio modo di vedere, certo. Ma è molto dura, credimi. Anche perché in Italia... che, ripeto, è un paese meraviglioso, la cultura non è ancora, non lo so, della serie di serie B, di mestieri? Faccio musicista, sì, ho capito, ma cosa fai di mestiere? Esatto, cosa porca fai di miseria, mestiere? Mi faccio un mazzo tanto. Scusate, non funziona. Hai ragione, però funziona. C'è sempre il blues che ci salva, Danilo. Questo è vero, però ricordate sempre, un grande personaggio negli Stati Uniti disse una volta... una civiltà non si misura, no? Dal numero di telefonini, ma si misura dal numero dei suoi artisti. Verissimo. Grande caspita, ragazzi, che facciamo? Sì. Siamo perfettamente d'accordo su questo. Bisogna andare avanti in ogni caso, questo è importante. Questo sì, è per quello che Max sta combattendo. Combattendo come un guerriero spartano. È vero. Ha superato tante difficoltà, perché come diceva giustamente prima in diretta, prima che arrivassi te in telefonata, c'è stato tanta sofferenza per portare avanti un progetto simile. Assolutamente, ma è un guerriero spartano, lui lo sa. Poi, io lo conosco e so benissimo come ci si sente. A un certo punto della propria vita uno dice: adesso basta, ragazzi, non ce la faccio più. Siete così bravi, andate avanti da soli, però non funzionerà, perché Max, come tutti i guerrieri spartani, diranno: io voglio essersi in prima linea. Certo. Cioè, Max combatterà fino alla fine, come combatterò io e combatteranno tutti gli altri. E parlando del pezzo che ha interpretato, parlavamo con Max, è un pezzo, secondo me, molto blues, tra virgolette, stavolta. Senti? Certo. Sento benissimo. Ah, mi sente? Ok, sì. Quindi benissimo. Ti sei calato bene sulla parte del musicista blues, sempre tra virgolette, di visto e corretto dal tuo modo di cantare, chiaramente. Certo. Ma sai, il blues è difficile dire oggi che cos'è il blues. Dal mio punto di vista è malinconia. Ma non solo. Blues è anche combattimento. Certo, vero. Tante cose, non lo so. Cosa dici, so. Max? Sì, sì, sono perfettamente d'accordo. È combattimento, è vero, bisogna andare avanti. Infatti, stiamo combattendo, infatti. Infatti. Benissimo, allora. Senti, Danilo, adesso niente, mandiamo in onda il brano e niente, ti ringraziamo per questo intervento. Della gentilezza. Buon appetito, cosa hai preparato di buono stasera? Perché è diventato ormai un classico questo qui, un'intervista, per dopo sapremo il menù della serata. Cos'è? Allora, ho fatto un bellissimo minestrone con tutte le verdure dell'orto e adesso stiamo attaccando, sono qui con due carissimi amici, stiamo attaccando un coniglio. Ah, con olive. Buono! Buonissimo! Va bene. Beh, allora buona cena. Sono politicamente corretto perché non sono vegetariano, quindi non posso farci niente. Quindi ripetiamo, buona cena! Buona cena allora! Grazie. Saluti alla Chiara anche! Va bene! Ok! Grazie Danilo! Grazie Danilo, ciao! Ciao, grazie! Ciao, ciao! A voi. Blu Radio. Il Veneto come non l'hai mai sentito. I gotta tell just how I feel. Walking on the street without you. I gotta tell you just how I feel. I think we could live together. I think we could live together. Some say tomorrow's another day, but there's something missing from my life, and I won't share you with another man. You know we could live together. You know we could live together. I have this desire, but there's a hole in my mind. I called you so many times in my dreams. I have this claim, but there's a hole in my mind. I call you so many times in my life. I have this desire, but there's a hole in my mind. I call you so many times in my dreams. I have this claim, but there's a hole in my mind. I call you so many times in my life. Told you once, I want to tell you again. You don't have to wear that dress today. I know my mind is made up for you, but I won't share you with another man. Yes, but I won't share you with another man. I've got to tell you just how I feel. Walking on the street without you. I've got to tell you just how I feel. I think we could live together. Desire, but there's a hole in my mind. I called you so many times in my dreams. I have to claim, but there's a hole in my mind. I called you so many times in my life. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Ok, giustamente a microfono spento, Manuela mi ha detto, sembra un costante scozzese, ha detto Danilo. Danilo ha detto. Devi andare avanti. Ecco. Danilo ha detto così. Sembra un costante scozzese. Perfetto, very well. Molto bene. Facciamo adesso un flash per presentare un disco nuovo tuo, di Stefano. Stefano Zabeo, quello è il tuo disco praticamente. Allora, si chiama Out Again, cioè fuori di nuovo, perché erano parecchi anni che non ne facevo uno. Guarda caso, ci eravamo un po' persi di vista con Max, ma anche il mio album è dedicato a Guido, guarda caso. Però, come diceva James Cotton, si suona il blues non per vivere il blues, ma per esorcizzarlo, quindi per stare bene, per dare good feeling alla gente. E vi vorrei far sentire questo brano che si chiama I Wanna Sing, che è dedicato a tutti quelli che tutti questi anni mi sono venuti a sentire nei vari concerti che ne hai fatti tanti in giro. Perfetto. Adesso sentiamo questo pezzo di Stefano Zabeo. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Pensa Max, quando non che sarò più, ti sarà ti a portare avanti a Blue Society. Questa è una frase che Guido mi disse nel giugno del 99, praticamente 2 mesi prima di, purtroppo, di morire. Di morire in un tragico incidente. Quindi ovviamente è veramente strana sta cosa. Infatti io ti dico, dopo cioè, l'incidente, cioè, mi ha fatto veramente un effetto particolare questa cosa. E quindi da lì è stato, diciamo, il punto di partenza per appunto decidere di portare avanti il progetto della Blue Society, e infatti per 10 anni l'ho portato avanti, insomma. Quindi hai acceso la luce. Dimmi. Se posso dire una cosa, vorrei ricordare che proprio pochi mesi prima di questa frase lui aveva scritto anche un pezzo che si chiamava The Road is a Killer. Esatto. Vedi caso. È vero. Sono tutte coincidenze strane. Sono cose veramente incredibili. Incredibili. Va bene. Concludiamo allora con l'ultimo pezzo, che è un pezzo particolare, vero Max? Sì, allora l'ultimo brano è un brano che abbiamo recuperato, si intitola Riot in Block Number 9, che è un brano, mi pare, degli anni 50, e questo era un brano che Guido aveva inserito nel disco che doveva uscire appunto nel 99, e che purtroppo non è mai uscito, perché dopo purtroppo è scomparso. Quindi io cosa ho fatto? Sono riuscito a recuperare i nastri che erano, diciamo, fermi lì da 11 anni, siamo impazziti per farli girare, perché ovviamente sono dei nastri multitraccia, 24 piste, però dopo 6 ore di lavoro siamo riusciti a fare un passaggio in digitale, dall'analogico abbiamo passato al digitale, e abbiamo ricreato, tenendo solo la voce di Guido e la chitarra di James Burton, perché là, fra l'altro c'è un chitarrista, direi, strepitoso, che certo, è il chitarrista di Elvis Presley, abbiamo recuperato queste 2 tracce e abbiamo ricostruito completamente tutto il resto del discorso dell'arrangiamento. È venuta fuori una... E ovviamente c'è la voce di Guido, certo, insomma, che chiude in modo molto degno, benissimo, esatto, l'album. Questo ripetiamo il titolo dell'album. Il titolo dell'album è Set Me Free, Ten Years After. Dove lo possiamo trovare? Si può trovare distribuito dalla Feltrinelli, c'è la Edel, l'etichetta l'ha dato in distribuzione la Feltrinelli. È possibile eventualmente acquistarlo anche via internet, entrando nel sito della Edel, Edel Italia. Perfetto. Sentiamo il pezzo finale e poi concluderemo come sempre. Come Rockwave dice, dal vivo, con un pezzo suonato. Blue Radio. July the 2nd, it was 1963. I was doing time for armed robbery. 4 o'clock in the morning, I was sitting in my cell. I heard a whistle blow, then I heard somebody yell. There's a riot going on. There's a riot going on. Yeah, there's a riot going on. Down in cell block number 9. A warder say, you come out with your hands in the air. If you don't stop this riot, you all gonna get the chair. Scarface John said, now it's too late to quit. Give me dynamite, don't you give me any shit. There's a riot going on. There's a riot going on. There's a riot going on. Down in cell block number 9. Say you come out with the hand in the air. If you don't stop this riot, you all gonna get the chair. Scarface John say, now it's too late to quit. Give me dynamite, don't you give me any shit. There's a riot going on. There's a riot going on. there's a riot going on down in cell block number 9. At the 47 hour, the nerve gas gotten in. We all back in ourselves, but every now and then there's a riot going on. A bloody riot going on. A big riot going on down in cell block number 9. A riot. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Abbiamo finito purtroppo. Purtroppo abbiamo finito questa ora e mezza di piacevolezze blues. Volevo solo fare un'ultima precisazione. Il brano che avete appena ascoltato, che ovviamente si sente la voce di Guido, la chitarra di James Morton, e c'è anche ci sono altri due personaggi dentro questo brano ospiti. Uno è Mario Fasciano, che è un tastierista importante che lavora molto in Rai, e l'altro è infatti si sente una influenza un po' partenopea, c'è il mandolinista dell'orchestra italiana di Renzo Arto. Ah, perfetto. Quindi insomma, più di così non si. Ricordiamo il tuo sito? Il mio sito è www.maxianantuono.com, dove potrete trovare tutte le informazioni, concerti, novità, scandali, di tutto. Di tutto, di tutto. Adesso terminiamo con un pezzo live. Cosa avete deciso di suonare? Cosa suoniamo, Stefano? Evil. Dimmi. Si dice evil proprio con questo tono, perché è il male. È un pezzo di Howling Wolf, tanto per cambiare, che era anche questo un brano che è stato inciso da Guido un po' di tempo fa. Ancora i tempi che furono. E ricorda anche il tuo disco, dai. Sì, diciamo. Approfitto, allora un po' pubblicità. Esatto. Anch'io ho fatto un disco, quindi si chiama Our Again, e è edito dalla Crotalo, si può trovare in internet e si può trovare anche su Amazon e su iTunes. Perfetto. Ok, grazie a Sergio Bortolami in regia. Ringraziamo Alberto Pisco, che ha stato l'idea di questa trasmissione è stata sua, che è il nostro direttore artistico. Grazie. Ci sentiamo domani, sempre dal vivo, sempre dalle ore 22 domani, però con una musicista di Torino, si chiama Lorenza, e Di Matteo, che è stata prodotta da Eugenio Finardi, una cantautrice. Grazie di tutto, e sentiamo l'ultimo pezzo così per concludere in bellezza. Poi ci sarà Rock Wave live, Rock Wave non dal vivo, Rock Wave con Renato Ferro. Grazie, e a risentirci domani dalle ore 22 con Rock Wave. Grazie. Grazie, ciao a tutti. Grazie a tutti. Ciao. From home, can't sleep at night, sent it back home, for sure it ain't right, that's evil, evil that's going on round. Well, I'm a warning your brother, you better watch your happy home. Well, if you're far away from home, can't sleep at all, maybe another mule is just kicking in your stall. That's evil, evil that's going on wrong. Well, I'm a warning your brother, you better watch your happy home. Well, if you're calling on the phone, she answers quite slow, maybe something ain't gonna be right. That's evil, evil that's going on wrong. Well, I'm warning your brother, you better watch your happy home. Home. Wave, l'onda del rock.